ad alta voce. Alvar Orbacher legge Agostino di Alberto Moravia. Tutti i ragazzi, distesi bocconi sulla sabbia intorno al saro, fumavano adesso con dei gran gesti dimostrativi di delizia. E intanto discutevano di qualcosa che non gli riuscì di afferrare. «E io ti dico che è lui!» affermava in quel momento Sandro. «La madre è una bella donna!» disse una voce ammirativa. «È la più bella donna della spiaggia! Io e Holmes un giorno siamo stati sotto la cabina per vederla spogliarsi. Ma ci è caduta la veste sopra gli occhi e non abbiamo veduto nulla. Ha certe gambe e un petto!» «Caldo, come caldo questo sole, come calda la tua pelle che si brucia sulla sabbia, anche il mio cuore è caldo come il mio amore, questo amore che ho per te. Il marito non si vede mai», osservò una terza voce. «Non aver paura, lei si consola. E sai con chi? Con quel giovane della Villa Sorriso, quello Bruno. Lui viene a prenderla tutti i giorni col pattino. Fosse soltanto lui, chiunque si fa avanti se la prende», disse qualcuno con malignità. «Sì, ma non è lui», insistette un altro. «Di, su, Pisa», domandò ad un tratto Sandro con autorità ad Agostino. «Tua madre non è quella signora che sta al bagno Speranza? Alta, bruna, con le gambe lunghe, che porta il costume a due pezzi, a strisce, e ha un neo a sinistra, presso la bocca?» «Sì, perché?» domandò Agostino impacciato. «È lui! È lui!» disse Berto trionfante, e in uno slancio di invidiosa malignità: «Sei tu che reggi il lume, eh? Andate in pattina al largo, lei, tu e il ganzo! Sei tu che reggi il lume!» Queste parole furono seguite da uno scoppio generale di risa. Anche il saro, sotto i baffi, sorrise. «Non so cosa dite», rispose Agostino, impacciato e incomprensivo, arrossendo. Sentiva che avrebbe dovuto protestare, ma quegli scherzi grossolani destavano in lui un sentimento inaspettato, quasi crudele, di compiacimento. Come se, con quelle parole, i ragazzi ignari avessero vendicato tutte le umiliazioni che da ultimo la madre gli aveva inflitto. D'altra parte lo paralizzava lo stupore di scoprirli così ben informati sulle cose sue. «Va là, innocentino!» disse la solita voce maligna. «Chissà che fanno, vanno sempre lontano, di un po'!» interrogò il Torti ma con sorniosa serietà. «Dicci che fanno! Lui la bacia, eh?» Egli si mise il dorso della mano contro le labbra e vi schioccò un grosso bacio. «Veramente?» disse Agostino, il viso acceso di vergogna. «Andiamo al largo per fare il bagno.» «Ah, sì, il bagno!» dissero più voci sarcastiche. «Mia madre fa il bagno, e anche Renzo.» «Ecco, si chiama Renzo!» disse uno con sicurezza, come ritrovando il filo perduto della memoria. «Renzo! È uno bruno, alto!» «Renzo e la mamma che fanno?» domandò ad un tratto Berto tutto ringalluzzito. «Fanno...» Egli fece un gesto espressivo con la mano. «E tu stai a guardarli, eh?» «Io...» ripeté Agostino spaurito volgendosi intorno. Tutti ridevano soffocando le risate nella sabbia. Solo il saro lo osservava con attenzione, senza muoversi né far motto. Disperato, egli lo guardò, come per implorare aiuto. Il saro parve afferrare quello sguardo. Si tolse il sigaro di bocca e disse: «Ma non vedete che non sa nulla?» Un improvviso silenzio seguì la gazzarra. «Ma come non sa nulla?» domandò il Torti, ma che non aveva capito. «Non sa nulla. ripeté il Saro con semplicità. E quindi, rivolto ad Agostino, raddolcendo la voce, «Di, Pisa, un uomo e una donna, che fanno? Lo sai?» Tutti parevano trattenere persino il fiato. Agostino guardò il Saro che fumava e lo considerava tra le palpebre socchiuse. Guardò i ragazzi che parevano tutti gonfi di risa maltrattenute. Quindi ripeté meccanicamente, con gli occhi rabbuiati come da una nube, «Un uomo e una donna?» «Sì, tua madre è Renzo!» spiegò con brutalità Berto. Agostino avrebbe voluto dire «Non parlate di mia madre!» Ma la domanda, mentre risvegliava in lui tutto un brulichio di sensazioni e di ricordi oscuri, lo sconcertava troppo per permettergli di parlare. «Non lo sa», tagliò corto il Saro, passando il sigaro dall'angolo destro a quello sinistro della bocca. «Su, chi glielo vuole dire?» Agostino guardò intorno sperduto. Pareva proprio di essere a scuola, ma quale maestro e quali scolari? «Io! Io! Io!» gridarono tutti insieme i ragazzi. Lo sguardo incerto del Saro spaziò per un momento su tutti quei visi infiammati di emulazione. Poi egli disse, «Anche voi non lo sapete veramente, lo avete soltanto udito dire. Lo dica chi lo sa davvero». Agostino vide tutti i ragazzi ammutolire e guardarsi. Sulla punta delle dita che ti sfiorano le labbra, le tue labbra così calde, io ti guardo felice. Canta te, sdraiata così, vicina così, e non stancarmi mai. Tortima, disse qualcuno. Un'espressione di vanità illuminò il volto del ragazzotto, e fece per alzarsi, ma con estremo rancore Berto disse, se l'è tutto inventato, non è vero nulla! Come non è vero nulla? Gridò il Tortima scagliandosi contro Berto. «Le bugie le dici tu, bastardo!» Ma Berto questa volta era stato lesto a scappare, e sporgendosi dall'angolo della baracca, il rosso viso lentiginoso deformato dall'odio, si mise a far delle boccacce e a tirar la lingua al Tortima, il quale, minacciandolo con un pugno, gridò «Non tornare, sai!» Ma la sua candidatura in qualche modo era stata sfatata da questo intervento di Berto. «Lo dica Sandro!» gridarono tutti i ragazzi ad una voce. Bello ed elegante, le braccia incrociate sul largo petto bruno su cui sfavillavano come oro radi peluzzi biondi, Sandro si fece avanti nel cerchio dei ragazzi sdraiati sull'arena. Agostino notò che aveva gambe forti e abbronzate, tutte avvolte come da un polverio aureo. Altri peli biondi gli scappavano all'inguine, fuori dalle sdruciture delle rosse mutandine da bagno. «È molto semplice», egli disse con voce chiara e forte. E parlando lentamente e aiutandosi con gesti efficaci, ma privi, si sarebbe detto, di volgarità, spiegò ad Agostino ciò che gli pareva di aver sempre saputo e, come per un profondo sonno, dimenticato. La sua spiegazione fu seguita da altre dimostrazioni meno sobrie. Alcuni dei ragazzi facevano gesti triviali con le mani. Altri ripetevano ad alta voce parole nuove e brutte all'orecchio di Agostino. Due gli dissero, «Gli mostriamo come si fa!» E caddero abbracciati sussultando e dimenandosi, l'uno sull'altro, sulla sabbia scottante. Sandro, contento del successo, si era ritirato da parte e finiva in silenzio la sua sigaretta. «Ora hai capito?» domandò il Saro appena la gazzarra si fu un poco attenuata. Agostino accennò di sì con la testa. In realtà non aveva tanto compreso, quanto assorbito la nozione, come si assorbe un farmaco o un veleno, e l'effetto lì per lì non si fa sentire, ma si sa che il dolore o il benessere non potrà fare a meno di verificarsi più tardi. La nozione non era nella sua mente vuota, dolente e attonita, bensì in qualche altra parte del suo essere, nel suo cuore gonfio di amarezza, in fondo al suo petto che si stupiva di accoglierla. Era, la nozione, simile a un oggetto rutilante e abbagliante che non si può guardare per lo splendore che emana e di cui si indovinano a malapena i contorni. Gli pareva d'averla sempre posseduta, ma mai risentita con tutto il suo sangue come in quel momento. «Renzo è la madre di Pisa!» udì dire da qualcuno alle sue spalle. «Io sono Renzo e tu sei la madre di Pisa, proviamo!» Si voltò di scatto e vide Berto che, con un gesto sguaiato e ancor più sguaiata cerimonia, domandava inchinandosi ad un altro. «Signora, vuol favorire in pattino? Si va a fare il bagno! Pisa ci accompagna!» E allora un'ira improvvisa l'accecò e si lanciò su Berto gridando «Ti proibisco di parlare di mia madre!» Ma prima ancora che potesse accorgersi di quello che era successo, si ritrovò supino sulla sabbia, tenuto fermo dalle ginocchia di Berto e tempestato di pugni su tutto il viso. Gli venne da piangere, ma comprendendo che le lacrime avrebbero offerto il destro a nuove beffe, con uno sforzo supremo riuscì a dominarsi. Quindi, coprendosi il viso con un braccio, stette immobile come morto. Dopo un poco lo lasciò e lui, malconcio, tornò a sedersi ai piedi del Saro. Ora, con volubilità, i ragazzi già parlavano d'altro. Uno di essi domandò a bruciapelo ad Agostino: «Siete ricchi voi altri?» Agostino, adesso, era tanto intimorito che non sapeva più che dire. Rispose tuttavia: «Credo di sì». «Quanto? 1 milione? 2 milioni? 3 milioni? «Non lo so», disse Agostino impacciato. «Avete una casa grande?» «Sì», disse Agostino, e rassicurato dal tono più cortese che assumeva il dialogo, non poté resistere ad una vanità di proprietario. «Abbiamo 20 stanze». 20 stanze, ripeté una voce ammirativa. «Boom!» disse un'altra voce con incredulità. «Abbiamo 2 salotti», disse Agostino, «e poi c'è lo studio di mio padre». «Il cornuto!» disse una voce. «Che era di mio padre?» si affrettò a soggiungere Agostino, quasi con la speranza che questo particolare gli attirasse la simpatia dei ragazzi. «Mio padre è morto». Ci fu un momento di silenzio. «Allora tua madre è vedova?» domandò il Tortima. «Eh già, si capisce!» dissero alcune voci in tono di canzonatura. «Che c'entra? Poteva essersi risposata!» si difese il Tortima. «No, non si è risposata», disse Agostino. «E avete anche l'automobile?» domandò un'altra voce. «Sì». «Con l'autista?» «Sì». «Di a tua madre che sono pronta a farle d'autista!» gridò qualcuno. «E in quei salotti che ci fate?» chiese il Tortima, che più di tutti pareva impressionato dai racconti di Agostino. «Ci date dei balli?» «Sì, mia madre riceve», disse Agostino. «Chissà quante belle donne», disse il Tortima come parlando a se stesso. «Quante persone vengono?» «Ma non lo so». «Quante?» 20 o 30», rispose Agostino, ormai rassicurato e non poco vano del successo ottenuto. 20 o 30? E che fanno?» «E che vuoi che facciano?» disse Berto con ironia. «Balleranno, si divertiranno. Son ricchi loro, mica poveri come noi. Faranno all'amore». «No, no, l'amore no», disse Agostino coscienzioso, anche per mostrare che ormai intendeva perfettamente quel che la frase volesse dire. Il Tortima pareva lottare con un'idea oscura che non riusciva a formulare. Finalmente disse: «Ma se io ad un tratto mi presentassi in uno di quei ricevimenti e dicessi: «Eccomi qui, che cosa faresti tu?» E così dicendo si levò in piedi e fece proprio il gesto di chi si presenta con spavalderia, il petto in fuori e le mani sulle anche. Tutti i ragazzi scoppiarono a ridere. «Ti pregherei di andartene via», disse Agostino con semplicità, incoraggiato dalle risa dei ragazzi. «E se io m'ostinassi a non andarmene?» «Ti farei mandar via dai camerieri». «Avete anche dei camerieri?» chiese qualcuno. «No, ma quando ci sono dei ricevimenti mia madre li affitta». «Toh, proprio come tuo padre!» Uno dei ragazzi doveva essere figlio di un cameriere. «E se io resistessi ai camerieri? Gli rompessi il muso e poi mi facessi in mezzo alla sala e gridassi: «Siete un mucchio di mascalzoni e di troie! Che cosa diresti tu?» Insistette il Tortima minaccioso, avvicinandosi ad Agostino e girandogli il pugno sotto il naso, come per farglielo odorare. Ma questa volta tutti insorsero contro il Tortima, non tanto perché parteggiassero per Agostino, quanto per il desiderio di udire altri particolari di questa favolosa ricchezza. «Ma lascialo stare, ti caccerebbero a pedate e farebbero anche bene», si sentiva protestare d'ogni parte. Berto con disprezzo disse: «Che c'entri tu? Tuo padre fa il marinaio, anche tu farai il marinaio. E se ti presentassi in casa di Pisa, certo non grideresti nulla, mi par di vederti», soggiunse levandosi in piedi e fingendo la supposta umiltà di Tortima in casa di Agostino. «Scusino, sta qui di casa il signor Pisa. Scusino, son venuto. Non importa, non importa, scusino tanto. Scusino il disturbo. Tornerò. Mi par di vederti, faresti degli inchini fin sulle scale!» Tutti i ragazzi risero. Il Tortima, stupido quanto brutale, non osò mettersi contro quelle risa. Ma cercando in qualche modo la rivalsa, domandò ad Agostino: «Sa fare il braccio di ferro?» «Il braccio di ferro?» ripeté Agostino. «Non sa cos'è il braccio di ferro?» dissero parecchie voci ironiche. Sandro si avvicinò, prese il braccio di Agostino, glielo ripiegò costringendolo a stare con la mano in aria e il gomito puntato sulla rena. Intanto il Tortima si era disteso bocconi per terra e aveva messo il braccio nello stesso modo. «Devi spingere da una parte», disse Sandro. «Tortima spingerà dall'altra». Agostino prese la mano del Tortima. Costui, con un colpo solo, gli atterrò il braccio e si levò trionfante. «Vediamo io», disse Berto. Con la stessa facilità del Tortima, egli atterrò il braccio ad Agostino e si levò a sua volta. «Io! Io!» gridarono i compagni. Uno dopo l'altro si provarono e vinsero tutti Agostino. Si presentò al fine il negro e una voce disse: «Se ti fai vincere da Holmes, beh, hai proprio le braccia di panno». Agostino decise che almeno il negro non l'avrebbe vinto. Il negro aveva braccia sottili, color del caffè tostato. Gli parve che le sue fossero più forti. «Su, Pisa», disse il negro con melenza spavalderia, distendendosi davanti a lui. Aveva una voce senza nervo, come di femmina, e appena il suo viso fu ad un palmo da quello di Agostino, costui vide che non aveva il naso schiacciato, come si poteva supporre, bensì aquilino, piccolo e ritorto in sé medesimo come un riccio di carne unta e nera, con una specie di neo più chiaro, quasi giallo, sopra una delle narici. Anche la bocca non era grossa come quella dei negri, ma sottile e violacea. Gli occhi li aveva tondi e bianchi, oppressi dalla fronte gonfia su cui si levava una gran zazzera fuligginosa. «Su, Pisa, non ti farò male», soggiunse, inserendo in quella di Agostino la mano delicata, dalle sottili dita nere unghiate di rosa. Agostino aveva notato che se avesse tirato un po' più sull'omero avrebbe potuto, senza parer di nulla, pesare con tutta la persona sulla propria mano. E questo semplice accorgimento gli permise, da prima, di reggere e contenere lo sforzo di Holmes. Per un lungo momento contrastarono senza superarsi, in un cerchio attento di ragazzi. Agostino stava col viso teso ma fermo, contratto tutto il corpo nello sforzo. Il negro invece faceva una grande smorfia, digrignando i denti bianchi e strizzando gli occhi. «Vince Pisa!» disse ad un tratto una voce in tono di meraviglia. Ma nello stesso momento un terribile dolore corse ad Agostino per la spalla e tutto il braccio. Sfinito, egli abbandonò la presa dicendo «No, è più forte di me!» «La prossima volta vincerai!» disse il negro levandosi, con una sua cortesia antipatica e melliflua. «Anche Holmes ti vince, sei proprio un buon a nulla!» disse il Tortima con disprezzo. Ma ora i ragazzi parevano stanchi di prendere in giro Agostino. «Si va in mare?» propose uno. «Sì, sì, in mare, in mare!» gridarono tutti. E a salti a capriole, eccoli correre attraverso la spiaggia, sulla sabbia ardente, verso il mare. Agostino, seguendoli da lontano, li vide gettarsi l'uno dopo l'altro, a capofitto, come pesci, nell'acqua bassa, tra grandi schizzi e gridi di gioia. Come giunse a riva, il Tortima, emergendo dall'acqua come una bestia, prima con la groppa, poi con il capo, gli gridò «Tuffati, Pisa! Che fai laggiù?» «Sono vestito!» disse Agostino. «Ora ti svesto io!» rispose il Tortima con cattiveria. Agostino cercò di sfuggire, ma non fece a tempo. Il Tortima l'acchiappò, lo trascinò nonostante i suoi sforzi e, cadendo insieme con lui, con maligna spietatezza gli tenne la testa sott'acqua, fino quasi a farlo soffocare. «Arrivederci, Pisa!» gridò poi, slanciandosi a nuoto. Poco più lontano si vedeva Sandro, in piedi sopra un pattino, in atto di manovrare con eleganza, tra i ragazzi che gli schiamazzavano intorno e cercavano di arrampicarsi sulle navicelle. Fradicio e ansimante, Agostino tornò a riva e per un momento guardò il pattino carico di ragazzi che si allontanava sul mare deserto, nel sole accecante. Poi, camminando in fretta sulla sabbia specchiante, in riva al mare, si avviò verso il bagno Speranza. Anche il mio cuore the moon.